Molti conoscono il nome del grande orecchio che intercetta le telefonate, il nome è Echelon, e pochi però sanno che questo sistema di intercettazione avviene anche sotto il mare, in quanto diversi cavi telefonici passano appunto come cavi sottomarini. Nello studio di Echelon alcuni esperti hanno avanzato l'ipotesi che i sottomarini nucleari siano lo strumento fondamentale per l'intercettazione delle telefonate che passano lungo i cavi sottomarini. Quindi ci siamo posti il problema: come mai ci sono ancora dei sottomarini nucleari nel Mediterraneo, quando nel Mediterraneo non ci sono assolutamente ragioni di utilizzare sottomarini? Il sottomarino è un sistema d'arma di intercettazione, di attacco, di presenza soprattutto per seguire il nemico, ma ormai nel Mediterraneo non ci sono più nemici. Lo stesso Gheddafi è ormai diventato un alleato della Marina Militare Italiana, e le navi di Gheddafi vengono ormai ospitate dalla base navale di Taranto. Quali sono quindi le ragioni per mantenere sottomarini nucleari nel Mediterraneo? Ed ecco, le ipotesi che sono state fatte dagli esperti sono appunto inquietanti, e cioè che questi strumenti possano intercettare le conversazioni telefoniche, in quanto vi è una fitta ragnatela di cavi telefonici nel fondo del Mediterraneo. Ovviamente quando parliamo di sottomarini nucleari sappiamo che tutti i sottomarini americani sono sottomarini a propulsione nucleare. Il vantaggio di questi sottomarini è quello di poter rimanere sott'acqua per moltissimo tempo, e quindi sono ideali per le intercettazioni. Le ipotesi che sono state quindi elaborate sono che ormai molti di questi sottomarini americani sono diventati più che strumenti militari d'attacco, dei veri e propri delle vere e proprie piattaforme per lo spionaggio e per l'intercettazione. Purtroppo di queste cose se ne parla molto poco, e i nostri politici, anziché occuparsi di questo, che è un sistema potenzialmente di intercettazione di tutte le telefonate, compresa questa, sembrano occuparsi d'altro. Va detto purtroppo anche i leader dell'Ulivo sembrano occupati e interessati a tantissime cose, tranne che a questa. L'alta tecnologia permette ormai intercettazioni distinte, ma l'alta tecnologia consente anche di fare cose completamente diverse. Il caso di un ciclista americano di nome Joshua, che ha costruito una bicicletta collegata a internet senza fili e con un cellulare dà l'ok per la stampa sull'asfalto di messaggi contro la guerra e contro Bush. È stata considerata la forma di protesta tecnologicamente più avanzata e più originale contro Bush. Questo ragazzo Joshua, con la sua bicicletta, viaggia sulle strade delle città americane, e quando qualche persona manda un'email lui la riceve sul computer del suo apparato tecnologico, e questo sistema che collega senza fili la sua bicicletta a internet permette la stampa di messaggi contro la guerra e contro Bush sull'asfalto. Joshua è stato arrestato e il 29 di settembre verrà processato proprio perché ha fatto tutto questo. Mi sembra che sia doveroso dover esprimere la nostra solidarietà nei confronti di questo ciclista simpatico e creativo. Quindi, che male ha fatto? C'è gente che viola ogni regola per intercettare, e c'è gente invece che realizza la propria comunicazione in forme assolutamente trasparenti e pubbliche.